Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Oggi è una bella giornata in quel di via dei Volsci San Lorenzo, anche se un po' freddina devo dire, però ci sta un bel sole, niente male. Allora, un saluto a Fabrizio che è venuto a trovarci a prendersi la sua copia della Scarceranda. Voi ce l'avete la vostra copia della magnifica Scarceranda di quest'anno? Allora, oggi ricorderemo Petrucciani in occasione del ventennale della morte. Il ventennale, infatti, era una fredda sera del 6 gennaio 1999. Lui era a New York per passare il Capodanno, lui viveva lì e purtroppo un'infezione polmonare se l'è portato via a soli 36 anni. Beh, lui era gravemente malato, comunque aveva una malattia degenerativa. Assolutamente, lui fin dalla nascita aveva questa osteogenesi imperfetta, anche detta una malattia delle ossa di cristallo, e in quanto lui insomma aveva queste ossa fragilissime che spesso si rompeva anche durante i concerti suonando, ma questo non gli ha impedito di coltivare questa sua grande passione e questa sua enorme poi positività. Mi piace anche questo di questo personaggio, che ha bruciato le tappe proprio perché sapeva che la sua vita sarebbe stata compromessa e breve, e insomma in 36 anni ha veramente fatto tanto ed è entrato nell'Olimpo dei grandi pianisti, e non a caso è sepolto a Parigi accanto alla tomba di Chopin. E allora cominciamo subito ad ascoltarci la sua musica. Qua in trio con Steve Gadd e Anthony Jackson, un live a Tokyo degli anni 90. Questa è la sua cantabile. cantato il disco, eh. Allora, questo grande pianista e compositore francese, nato a Orange il 28 dicembre del 1962. E come detto, appunto, affetto fin da bambino da una grave malattia alle ossa, si immerge molto presto nella musica e studia pianoforte classico per 8 anni. E così poi a 12 anni suona in concerto con una formazione familiare insieme a suo padre chitarrista e fratello Louis contrabbassista. Insomma, la musica era di casa, il padre aveva un negozio proprio di strumenti musicali. E così suona lo strumento per 9 ore al giorno, si registra, si critica e insomma si immerge in questo mondo musicale, prima appunto degli studi classici e poi invece si avvicina pian piano al jazz. Sapeva appunto di avere poco tempo e quindi bruciava le tappe in tutto e per tutto. Così a 15 anni, a soli 15 anni nel 1977, si ritrova a suonare con i grandi del jazz americano, sia quel Kenny Clark, batterista, che dagli anni 50 si era trasferito a Parigi. E così poi nel 1978, anche con un grande trombettista, Clark Terry, che lo sente suonare con il suo gruppo e ne rimane conquistato, e così decide proprio di suonare con lui. E poi 2 anni più tardi si trasferisce a Parigi e suona con Chuck Israel e in diverse formazioni, appunto tutte parigine. Così arriviamo al 1981, quando a soli 19 anni decide di incidere il primo disco, questo Date with Time, un disco in piano solo in cui ripercorre i grandi classici anche del jazz, come Afro Blue oppure questa Round About Midnight di Thelonious Monk. Thank you. Beh, diciamo che Michel Petrucciani è famoso per la sua collaborazione con la Dreyfus, a cui ha fatto la maggior parte dei suoi dischi, ma prima ha fatto tutto quanto un percorso. Questo è inciso in Francia, ma poi si trasferisce in America subito dopo. Eh sì, perché proprio l'anno seguente, siamo nel 1982, e il buon Michel Petrucciani decide di trasferirsi in America, e più precisamente in California, dove incontra un grande sassofonista, quel Charles Lloyd, che però si era ritirato dalle scene. Però proprio Charles Lloyd, entusiasta proprio di questo nuovo pianista, di questo giovane pianista, decide di ritornare sulla scena e se lo porta in tournée, in giro per il mondo, facendolo appunto conoscere. E poi nell'anno seguente, il 1983, Michel Petrucciani invece si ferma a New York e suona in duo con Lee Konitz e realizzano anche uno splendido album che ci ascoltiamo proprio adesso. E allora, dall'album Toot Sweet, uscito per la Universal nel 1983, abbiamo selezionato la traccia che chiude questo album ed è a firma di entrambi, Lovely. Adesso ci ascoltiamo Bimini. Thank you. così piano piano Michel Petrucciani riesce a conquistarsi notorietà anche, anche in America e rispetto anche dei musicisti afroamericani. E così nel 1984 già si esibisce stabilmente come solista e incide diversi dischi anche in Francia. E nello stesso anno, appunto nel 1984, esce il suo primo disco statunitense, 100 Hearts. E qui invece siamo nel 1985, l'anno dopo siamo al festival di Montreux Jazz Festival, e qui è in compagnia di due vostri sacri, il chitarrista Jim Hall e il sassofonista Wayne Shorter. Sono i più caraibici, infatti Bimini è un'isola dei Caraibi, e questo è un brano che porta la firma del chitarrista Jim Hall. Michel Petrucciani, un genio della musica nonostante la malattia che lo affliggeva. Tra l'altro era molto basso, era alto meno di un metro. Sì, 99 centimetri, ma come diceva poi anche lo stesso Wayne Shorter con cui era andato in tournée, appunto lui quello che, di cui appunto si sorprendeva è che non l'aveva mai sentito lamentarsi di nulla. Lui che spesso poi arrivava al pianoforte con le stampelle e i pedali dovevano essere rialzati, e tra l'altro la Steinway & Son gli realizzò e fu per l'unico musicista della storia dei pedali appunto personalizzati, proprio per permettergli di arrivare appunto a premere i pedali. Questi sono gli anni della Blue Note, lui infatti sarà il primo musicista francese a incidere per la storica casa discografica di New York. Tra l'altro Blue Note che il 6 gennaio ha festeggiato gli 80 anni dall'uscita del primo disco. E quindi insomma questo 6 gennaio che ritorna come data importante per il jazz. E allora ci ascoltiamo proprio un brano da un disco uscito per la Blue Note, si chiamava Michelle Plays Petrucciani, e qua è in compagnia di Roy Haynes, Al Foster, Gary Peacock, Eddie Gomez e John Abercrombie, insomma l'elite del jazz americano di quegli anni. È un disco formato da 9 brani, tutti a firma di Michelle Petrucciani, e questo lo dedichiamo a Guido Gaito che ci sta ascoltando. Un saluto anche a Lucilla. Allora un saluto anche a chi ci ascolta in replica, vi ricordiamo che trovate tutti i podcast delle varie puntate di Attica Blues sul sito www.ondarossa.info. Nella nostra pagina Attica Blues ci arrivate da palinsesto, andate giovedì pomeriggio e ci sta cliccabile Attica Blues. A ogni podcast è associata la scaletta con tutti i brani, una foto rappresentativa della puntata, una foto che tra l'altro trovate su Facebook e su Instagram e su Twitter anche, allora, e su Twitter. In realtà su Faccia Libro trovate due foto, una per la presentazione della puntata e una poi per la scaletta con link al podcast, i contenuti multimediali. Trovate anche dei video, spesso delle esibizioni live degli artisti di cui trattiamo proprio il giovedì in diretta in radio. E allora continuiamo con Michel Petrucciani. Qui non è leader di un suo disco, ma un sideman però di un sassofonista meraviglioso, sempre Blue Note. Parliamo di Joe Lovano, qui accompagnato appunto da Michel Petrucciani al piano, da Dave Holland al contrabbasso, Ed Buckwell alla batteria. Il disco è stato inciso nel 1991 a New York, il disco veramente molto bello si chiama From the Soul e noi abbiamo selezionato la traccia d'apertura, Evolution. We'll be right back. brano ricco di assoli. Incredibile come l'assolo di batteria era meno di un minuto dopo l'inizio. A inizio brano, ma anche a inizio disco, quindi insomma, e questo invece è Dave Holland al contrabbasso. E ormai è un Petrucciani lanciatissimo in America, ma nel 1993 decide di lasciare la Blue Note per abbracciare invece la Dreyfus, la bella casa discografica francese. E con la Dreyfus ha inciso, a mio avviso, i più bei dischi della sua produzione. E noi adesso ci ascoltiamo proprio un disco della Dreyfus ed è un incontro con un musicista francese storico, Stefan Grappelli, che già aveva suonato con Django Reinhardt. E quindi qua in un disco, appunto, in questo incontro bellissimo, e in un quartetto poi completato anche da due musicisti americani, Roy Haynes e George Mraz. Il disco si chiama Flamingo e noi ci ascoltiamo una traccia firma di Michel Petrucciani, Little Peace in C for You. Adesso cominciamo a sentirci un po' di dischi alla Dreyfus col tempo che ci rimane. Ed eccolo qui in compagnia di Stefan Grappelli, Michel Petrucciani alla Dreyfus. Thank you. Michel Petrucciani che si adatta perfettamente anche alle formazioni ridotte, dall'assolo al trio, per via di quel suo carattere aperto, quasi invadente, che richiede spesso accompagnatori discreti e raffinati, proprio come in caso di questo prossimo brano, sempre per la Dreyfus. Tra l'altro da un CD bellissimo, Conference Press, un CD doppio cartonato fatto in modo di conferenza stampa. Conference Press vuol dire conferenza stampa in francese, la Dreyfus era francese come Petrucciani, e bellissimo cartonato che si apre veramente con delle foto belle. Ci sono anche gli articoli poi dei giornali, i titoli insomma che parlano di loro, e qui appunto in compagnia dell'organista francese Eddie Lewis, e noi abbiamo scelto proprio un brano a firma di Eddie Lewis, Caraibi. Allora rimaniamo alla Dreyfus, ma passiamo a Petrucciani in solo. Sì, perché lui è un pianista intimista, lirico, ma anche impetuoso, ed è fin da subito comunque riconoscibile per i tratti folgoranti che sottolineano l'ampiezza dinamica del suo strumento, e che comunque si avvale anche di un fraseggio, di una tecnica immensa. E allora, quale migliore occasione per sentirlo in piano solo, qui catturato il 27 febbraio del 1997 a Francoforte, ancora dalla Dreyfus, e questa è la sua Chloé meets Gershwin. Allora rimaniamo alla Dreyfus, ma questa volta Petrucciani è accompagnato da un quartetto d'archi. Un quartetto d'archi è un trio formato appunto da Michel Petrucciani al piano, Dave Holland ancora al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. E questo è il brano che apre questo Marvelous. Il brano d'apertura si chiama Manhattan ed è proprio a firma di Michel Petrucciani. Diceva Petrucciani: quando suono, suono con il mio cuore, la mia testa e il mio spirito. Così sono io, non suono per la testa della gente, ma per i loro cuori. Mi piace creare risate ed emozioni. Questo è il mio modo di lavorare. Così, solo nel 1998, l'anno prima di andarsene, realizzò ben 140 concerti in giro per il pianeta. E già diceva: non mi resta tanto tempo e ancora qualcosa da dire. Ho tanti progetti e sento di non riuscire a realizzarli tutti. E infatti lui era comunque un affamato di vita, un affamato di divertimenti, di cultura, ma anche di vizi, stravizi. Lui ha avuto tra l'altro anche 3 mogli in 36 anni e ben 2 figli. Tra i suoi sogni c'era quello di aprire una scuola di jazz in Francia. Sì, appunto è lo scopo della sua vita, dice: voglio costruire uno spazio per il jazz, perché il jazz sta morendo, diceva, e purtroppo questo suo sogno non si realizzò, come anche nel 1999 voleva realizzare un tutto un modo, appunto era il centenario della nascita di Duke Ellington, che era la sua vera prima passione, e voleva celebrarlo a modo suo con una rilettura di tutti i suoi concerti sacri riscritti proprio per pianoforte. Ma purtroppo quel 6 gennaio lui ci abbandonò. Allora passiamo a Petrucciani in duo, non più una produzione Dreyfus. In duo è qui con un contrabbassista, Nils Heiding Horsted Pedersen, che fu anche spalla di un altro grande pianista, ossia Oscar Peterson. E qui li incontriamo il 18 aprile del 1994 in un live club di Copenaghen, il Jazz House, e noi ci ascoltiamo una rilettura a modo loro di uno standard del jazz, questo St. Thomas, scritto da Sonny Rollins. allora salutiamo Samuele che ci ascolta da Bologna. In streaming dal magnifico sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info. Basta andare su Ascolta la diretta, cliccare. Allora, Attica Blues volge al termine, abbiamo giusto il tempo per un altro paio di brani. E continuiamo ancora con Michel Petrucciani in una dimensione più intima, ancora in compagnia di un contrabbassista, lui è Ron McClure, e qui sono però in studio e hanno realizzato un bel album dal titolo Cold Blues, ed è proprio questa che ci ascoltiamo. Bellissima la foto all'interno. Lui vestito di bianco, il contrabbassista col contrabbasso Moody Mitra, e lui che fa il segno come per sparargli con le mani. Carina proprio la foto, allegra. Thank you. Brano per noi, chiudiamo con un live. Un live anche perché era poi la dimensione più bella per ascoltare Michel Petrucciani. Live ne ha fatti una quantità incredibile in tutto il mondo. Sì, io ho avuto la fortuna di sentirlo 3 volte in Italia, fra Umbria Jazz, Roma, Roccella Ionica, e quindi insomma sì, lui era, appunto, abbiamo detto, l'anno prima che morisse aveva fatto 140 concerti in giro per il mondo. E allora noi abbiamo deciso di chiudere con un live registrato nel 1991 a Metz in Francia, all'Arsenal, e questa è la sua Looking Up, in compagnia di Adam Holtzman alle tastiere, Steve Logan al contrabbasso, Abdou Boumboup alle percussioni e Victor Jones alla batteria. diceva Michel Petrucciani, dall'alto dei suoi 99 centimetri usava dire vivo in un mondo di giganti, ma sono l'unico normale, ma devo anche compiacerli. Allora, noi con questo brano vi salutiamo, ma giovedì prossimo saremo di nuovo qui e torneremo nell'isoletta delle West Indies in Jamaica Star con un'altra puntata dedicata allo Studio One. Tra l'altro questa settimana, sabato sera, ci sta un grande personaggio qui in città, Linval Thompson, che vi consigliamo vivamente di andare ad ascoltare. Anche ovviamente Michel Petrucciani lo trovate nella nostra playlist di Spotify, basta cercare anche lì Attica Blues e troverete più di 50 ore di musica che rappresentano questa bella trasmissione.